pronti? Dottore. Partito. Ciak. Azione. Non riuscirai mai a capire una persona se non cerchi di metterti nei suoi panni. Audiogrammi di Laura Faggin e Paolo Corleoni. You are a cinema, a Hollywood treasure. I love you just the way you are. A cinema, a cinema. Audiogrammi in radio come al cinema. Era come una giornata di festa. Sotto ogni albero disponibile stavano fermi muli e carri. La piazza del tribunale era invasa da comitive che si rimpinzavano di biscotti e sciroppo con latte caldo in barattoli di marmellata. Nell'angolo estremo della piazza i negri sedevano in silenzio, mangiando a base di sardine e di biscotti salati. Il tribunale della contea di Macomb era un edificio in stile vittoriano primitivo, con una grossa torre dell'orologio del XIX secolo che albergava un arrugginito e poco attendibile strumento. Per arrivare nella sala delle udienze al primo piano si attraversavano i tetri stambugi degli uffici della contea. L'assessore alle imposte, l'esattore delle tasse, il segretario della contea e altri funzionari stavano in freddi e squallidi bugigattoli puzzolenti di registri in disfacimento e di vecchio cemento umido. Sapevamo che ci sarebbe stata ressa, ma non potevamo prevedere la calca del lungo atrio a pian terreno. I negri, dopo aver atteso che i bianchi salissero di sopra, cominciarono a entrare. You say you love me, darling. Please call me on the phone sometime. You say you love me, darling. Nell'aula non c'era un solo posto, ma il reverendo ce ne aveva trovati quattro nella prima fila della balconata del tribunale. Grazie per avermi tenuto il posto, John. Venite, ragazzi. Coraggio, su. La balconata per gli uomini di colore correva lungo tre pareti del tribunale, come una veranda al primo piano, e di lì potevamo vedere tutto. I giurati sedevano a sinistra, sotto una fila di lunghe finestre. Cotti dal sole, scarni, parevano tutti contadini. Ma era naturale. Raramente una giuria era composta da gente di città. Il pubblico ministero e un altro signore sedevano a un tavolo, voltandoci le spalle, con Atticus e Tom Robinson. Subito oltre la transe, il giudice Taylor stava sul suo scranno, con l'aria di un vecchio pescecane sonnacchioso, pelle di vacca. Anche loro ci voltavano la schiena. Amabile, canuto, acceso in volto, era il tipo d'uomo che mandava avanti il tribunale con allarmante anticonformismo. A volte poggiava i piedi sul tavolo, spesso si puliva le unghie con un temperino. era profondo conoscitore della legge e, sebbene avesse l'aria di prendere alla leggera il suo compito, in realtà dirigeva con pugno fermo tutti i processi che gli venivano sottoposti. Il banco dei testimoni era situato alla destra del giudice Taylor e quando raggiungemmo i nostri posti, il signor Hecktett vi era già salito. Il signor Tett, vestito per l'occasione con un completo da città, sedeva proteso in avanti sulla sedia dei testimoni, con le mani strette fra le ginocchia, attento a quanto diceva il pubblico ministero, signor Gilmer. Cominciò il signor Tett. La sera del 21 agosto io stavo uscendo dal mio ufficio per andare a casa quando arrivò Bob, cioè il signor Ewell. Era molto eccitato e mi disse di correre immediatamente a casa sua perché sua figlia era stata violentata. Io presi la macchina e andai là più in fretta che potevo. La ragazza era piena di lividi. Le chiesi se era stato Tom Robinson a picchiarla in quel modo e lei disse sì, è stato lui. Le chiesi se lui aveva approfittato di lei e lei disse sì, questo è tutto, non c'è altro. Grazie. Il giudice Taylor alzò gli occhi come se si aspettasse un'obiezione. Atticus disse: Sceriffo, lei dice che la ragazza era piena di lividi. Per esempio dove? Beh, sulla faccia e sulla testa. E aveva anche dei segni qui, sulle braccia. E un occhio nero. Quale occhio? Era il sinistro. Vediamo, era il sinistro guardandola di fronte o quello a sinistra del viso? Sì, sarebbe stato il suo occhio destro. Sì, era l'occhio destro, signor Finch, me lo ricordo. Tutti i lividi erano da quella parte del viso. Vuol ripetere da quale parte, Eck? La parte destra. Aveva i lividi sulle braccia e mi fece vedere anche il collo. Aveva dei segni rossi anche sul collo. Tutto intorno al collo o soltanto sulla gola? Direi tutto intorno al collo. Atticus si sedette e fece un gesto al pubblico ministero, il quale guardò il giudice scuotendo la testa. Il testimone può allontanarsi. Il signor Tett s'alzò tutto rigido e scese dal banco dei testimoni. Robert Lee Ewell. Un uomo dall'aria combattiva s'alzò e tutto impettito si avviò verso la sbarra, mentre la nuca gli diventava rossa al suono del suo nome. Quando si voltò per prestare giuramento, vedemmo che aveva la faccia rossa come la nuca. Aveva un naso sottile, appuntito e lucido. Il mento era come se non esistesse. Metta la destra sulla Bibbia. Giuri di dire la verità, tutta la verità e nient'altro che la verità. Lo giuro. Sieda, prego. Dunque, signor Ewell, ci racconti con parole sue che cosa accadde la sera del 21 agosto? Beh, quella sera io stavo tornando a casa dal bosco con della legna e quando arrivai al cancello sentì Meiella che urlava. Allora lasciai la legna e corsi verso la casa, ma inciampai e caddi per terra. Quando mi rialzai, andai di corsa alla finestra e vidi quello lì insieme a Meiella. Che cosa fece dopo aver visto l'imputato? Feci il giro della casa per entrare dalla porta, ma lui uscì di corsa prima che arrivassi io. Ma l'ho visto bene, l'ho riconosciuto. L'ho visto bene. Allora corsi in casa. La povera Meiella era sdraiata sul pavimento. E sono corso a chiamare subito il signor Tett. Grazie, signor Ewell. Il testimone scese precipitosamente dal banco e andò a sbattere dritto contro Atticus, che s'era alzato per interrogarlo. Il giudice Taylor lasciò che il pubblico ridesse. Le dispiacerebbe rispondere a qualche domanda, signor Ewell? No, signor Finch, non mi dispiace. Sembra che quella sera corressero tutti. Dunque, vediamo. Lei dice che corse verso casa, poi corse alla finestra, corse dentro, corse verso Meiella e poi corse dallo sceriffo Tett. E perché dopo tutte queste corse non corse anche da un dottore? Perché non ce n'era bisogno, avevo visto tutto. Signor Ewell, lei ha sentito lo sceriffo, è d'accordo con la sua descrizione dei lividi di Meiella? Sono d'accordo con tutto quello che ha detto. Aveva un occhio nero, era piena di lividi. faceva paura. Dica, signor Ewell, lei sa leggere e scrivere? Sì, signor Finch, so leggere e so scrivere. Atticus tirò fuori una busta e una penna stilografica e le porse al signor Ewell. Allora, vuole scrivere il suo nome per piacere? Ecco, lo scriva qui e ce lo faccio vedere. Il signor Ewell scrisse sulla busta e alzò gli occhi, compiaciuto nel vedere che il giudice Taylor lo stava fissando e che il giudice Gilmer, al suo tavolo, stava mezzo seduto e mezzo in piedi. Beh, è con questo. Lei è mancino, signor Ewell. Beh, questo che c'entra, giudice? Io sono un uomo di chiesa. Atticus Finch sta cercando di approfittarsi di me. Bisogna stare attenti alla gente come Atticus. Silenzio! Faccia silenzio! Il testimone può accomodarsi. Atticus stava cercando di dimostrare che poteva essere stato il signor Ewell a bastonare Maiella. Fin lì potevo arrivarci anch'io. Se era tutta pesta sul lato destro del viso, ciò poteva contribuire a dimostrare che il colpevole era un mancino. Ma niente di più facile che fosse mancino anche Tom Robinson. Una ragazza s'avvicinò al banco dei testimoni per prestare giuramento. Quando si sedette sulla sedia dei testimoni, mostrandoci il viso, si palesò per una ragazza dal corpo vigoroso, abituata a estenuanti fatiche. Io stavo sulla veranda e lui passò lì davanti. C'era un vecchio armadio che non serviva in giardino e io gli dissi: senti, se fai a pezzi questo vecchio armadio io ti regalo 20 cents. Allora lui entrò nel giardino e io stavo rientrando per prendere i soldi. E mi voltai e lui mi venne addosso. Io mi misi a urlare, ma lui mi teneva per il collo e mi picchiava con tutta la forza che aveva. A un tratto mi accorsi che papà era anche lui nella stanza accanto a me, che gridava: chi è stato? Chi è stato? Grazie, Maiella. Evidentemente la filastrocca aveva infuso a Maiella una certa baldanza, che però non era sfrontata come quella del padre. C'era in lei qualcosa di sornione, come una gatta dall'occhio fermo e dalla coda vibrante. A lei, Atticus. Senta, Maiella, suo padre è buono con lei? Voglio dire, voi due andate d'accordo? Abbastanza. Salvo quando è ubriaco? Quando ha bevuto, l'ha mai picchiata? Mio padre non mi ha mai torto un capello in tutta la mia vita. Ora lei dice di aver chiesto a Tom di entrare per fare a pezzi un... che cos'era? Un vecchio armadio. Era la prima volta che lei lo faceva entrare nel giardino? Sì. Non lo aveva mai invitato a entrare in giardino prima di allora? Sì, forse. Ma lei non si ricorda in quale altra occasione? No. Lei ha detto: mi afferrò, mi picchiò e si approfittò di me. È esatto. Si ricorda per caso se l'ha picchiata sul viso? No, non mi ricordo bene. Io voglio dire sì, sì, mi ha picchiato. Certo che mi ha picchiato. Grazie. Ora vuole indicarci l'uomo che l'ha picchiata? Certo che glielo indico, è quello seduto là. Atticus si rivolse all'imputato. Tom, alzati un momento per piacere. Voglio che Maiella ti guardi bene. Audiogrammi Radio 24 è anche su Facebook e in podcast su radio24.it. Le poderose spalle di Tom Robinson gli gonfiavano la camicia sottile. Si alzò in piedi e restò con la mano destra sullo schienale della sedia. Pareva stranamente sbilanciato, ma non dipendeva da come stava in piedi. Il braccio sinistro era 30 centimetri più corto del destro e gli pendeva inerte lungo il fianco. Finiva in una piccola mano raggrinzita e persino io dalla galleria potevo vedere che non gli serviva a niente. Atticus prese un bicchiere e fece per tirarglielo. Tom, prendila al volo per piacere. Tom prese al volo il bicchiere con la mano destra. Grazie. Ora, questa volta, prendilo con la mano sinistra. Non posso, signore. Perché non puoi? Non ho l'uso della mano sinistra, signore. L'ho avuta presa in una falciatrice quando avevo 12 anni. E tutti i muscoli si sono paralizzati. E questo l'uomo che l'ha violentata? È lui, signore. Come ha fatto? Non so come. L'ho fatto. È stato lui. Lei ha detto che lui l'afferrò e la picchiò. Non ha detto che l'aggredì alle spalle e che la fece svenire, ma che lei si voltò e lo vide avanti a sé. Ci vuol dire come sono andate realmente le cose? Io ho già detto tutto quanto e non voglio ripeterlo più. Il viso di Maiella era un misto di terrore e furore. Atticus si sedette pesantemente e si pulì gli occhiali con il fazzoletto. L'aveva colpita duramente in un modo che non mi riusciva chiaro, ma il farlo non gli aveva procurato alcun piacere. Atticus chiamò l'unico testimone che aveva. Tom Robinson. Metta la mano sulla Bibbia. Giuri di dire la verità, tutta la verità e nient'altro che la verità. Dica, lo giuro. Lo giuro. Seduto. Tom prestò giuramento e si sedette sulla sedia dei testimoni. Tom, che cosa accadde la sera del 21 agosto dell'altro anno? Signor Finch, io stavo tornando a casa come tutte le sere e passai davanti alla casa degli Uel. Miss Meyel era sotto il portico, come ha detto anche lei, e mi disse di entrare e di aiutarla un momento. Beh, io entrai dal cancello e guardai se mi aveva preparato qualcosa da fare, ma non vidi niente. E poi lei mi disse di entrare in casa perché c'era una porta da aggiustare. E guardai quella porta, ma non era da aggiustare. E lei chiuse la porta. E io mi accorsi che c'era un gran silenzio. Non era come sempre. Infatti capii che non c'erano i bambini. E allora dissi: Miss Meyella, dove sono i bambini? E lei disse che erano andati tutti a prendere il gelato. E tu che dicesti allora? Io dissi qualcosa come: beh, Miss Meyella, è meglio che me ne vada. Non c'è nessun lavoro da fare. E lei disse: oh sì, c'è una cosa. E lei mi disse di salire sopra una sedia che era lì e di prendere una scatola di cartone che era in cima all'armadio. Allora io volevo fare come aveva detto lei e stavo per farlo quando a un tratto lei mi abbracciò le gambe. Io ho avuto tanta paura che saltai giù e feci cadere la sedia. Questa era l'unica cosa che era in disordine in quella stanza, signor Finch, quando io me ne andai, lo giuro. E che successe dopo che avevi fatto cadere la sedia? Io sono sceso dalla sedia e mi sono voltato. E lei allora corse verso di me e mi abbracciò alla vita. Si alzò in punta di piedi e mi baciò sul viso. E disse che un grande non l'aveva mai baciato e che tanto valeva che baciasse me e voleva che anch'io la baciassi. E io dissi: Miss Meyella, mi faccia andare via. E cercai di scappare. Quando il signor Ewell le gridò dalla finestra che voleva ucciderla. Mentre Tom Robinson faceva la sua deposizione, mi resi conto che Maiella Ewell doveva essere la persona più sola di questo mondo, ancor più sola di Boo Radley. I bianchi non volevano sapere di avere a che fare con lei perché viveva fra i maiali. I negri non volevano sapere di avere a che fare con lei perché era bianca. Probabilmente Tom Robinson era l'unica persona che le avesse mai usato delle gentilezze. E dopo che successe? Io correvo così forte che non vidi più niente. L'aula era silenziosa e il signor Gilmer stava scrivendo su uno dei blocchetti gialli posati sul suo tavolo. Atticus stava arringando la giuria. Per prima cosa, questo processo non doveva nemmeno essere fatto. L'accusa non ha prodotto nessuna, dico nessuna, prova medica che il delitto a Tom Robinson ascritto sia stato commesso. Si è basata invece sulla deposizione di due testimoni, deposizioni che non solo sono state messe in serio dubbio dal mio controinterrogatorio, ma che sono state completamente smentite dall'accusato. Esistono inoltre degli indizi abbastanza precisi che Mayela Ewell sia stata picchiata selvaggiamente da qualcuno che ha usato quasi esclusivamente la sinistra. E Tom Robinson, che voi vedete avanti a voi, ha prestato giuramento con l'unica mano valida che possiede, la destra. Io sento solo della pietà nel mio cuore per la testimone dell'accusa. Essa è una vittima della povertà e dell'ignoranza. Ma la mia pietà non arriva certo a permetterle di mettere a repentaglio la vita di un uomo, cosa che ha fatto per tentare di scagionarsi della sua colpa. E ho detto colpa, signori, perché è stato il senso di colpa a motivare il suo contegno. Ella non ha commesso delitti. Ha semplicemente violato un rigido, severo e antico codice della nostra società. Una regola così severa che chiunque la violi viene cacciato dalla nostra comunità come un cane rabbioso. E lei doveva distruggere la prova del suo errore. Ma qual era la prova di questo errore? Tom Robinson, un essere umano. Tom Robinson era per lei un ricordo scottante di ciò che aveva fatto. E cosa aveva fatto? Aveva adescato un negro. Lei, bianca, si era offerta a un negro. Aveva fatto qualcosa che nella nostra società è imperdonabile. Aveva baciato un negro. I testimoni dell'accusa, eccetto lo sceriffo della contea di Macomb, sono venuti davanti a voi, signori, davanti a questa corte, con la cinica sicurezza che nessuno avrebbe messo in dubbio le loro parole. Fiduciosi che tutti voi li avreste seguiti nel preconcetto, nel falso preconcetto, che tutti i negri mentono, che tutti i negri sono fondamentalmente degli immorali, che non bisogna mai fidarsi di lasciare un negro vicino a una donna bianca. Un preconcetto inevitabile nelle menti di quel calibro e che è fondamentalmente falso. E così un povero, umile e rispettabile negro che ha avuto l'imperdonabile temerarietà di provare compassione per una donna bianca deve cimentare la sua parola contro quella di due bianchi. L'accusato non è colpevole, ma qualcun altro in quest'aula lo è. Ora, signori, nel nostro paese i tribunali sono giusti e democratici. E nei tribunali tutti gli uomini sono considerati uguali. E ho fiducia che voi, signori, esaminerete senza preconcetti le testimonianze che avete udito e darete un verdetto che restituisca quest'uomo alla famiglia. L'aula rimase immobile e la giuria si ritirò. Passò del tempo, il caldo era insopportabile, ma nessuno lasciò il suo posto. Quanto tempo è che sono dentro, reverendo? Vediamo. Sono quasi 2 ore. Io credo che sia un segno buono. Non le pare? Guardai giù e vidi Atticus che passeggiava per l'aula con le mani in tasca. Lo salutai con la mano e lui accolse il mio saluto con un cenno del capo e riprese la sua passeggiatina. Email audiogrammi@radio24.it. Non ho mai visto un'aula così gremita e così silenziosa. Il vecchio orologio del tribunale, dopo gli abituali penosi conati preliminari, batté l'ora. 8 rimbombi che si ripercossero fin nelle nostre ossa. Quando arrivò a suonare 11 rintocchi, ero diventata insensibile. Stanca di lottare contro il sonno, mi ero concessa un sonnellino contro il comodo braccio e le spalle del reverendo. Mi svegliai con un sussulto. Dil dormiva della grossa, con la testa sulla spalla di Jem, e Jem stava immobile. Avvertii un'impressione di freddo e rabbrividì, sebbene la notte fosse afosa. La tensione aumentò. Giù sotto il signor Actet era entrato nell'aula e parlava con Atticus. Atticus aveva interrotto la sua tranquilla passeggiata e aveva appoggiato il piede sulla traversa inferiore di una sedia. Mentre ascoltava quel che gli diceva il signor Tet, si passava lentamente la mano avanti e indietro lungo la coscia. Poi il signor Tet si voltò e disse: «Entra la corte, tutti in piedi, prego!» Ciò che avvenne in seguito aveva una sfumatura irreale. Come in sogno vidi tornare alla giuria e la voce del giudice Taylor veniva assai da lontano. Signori della giuria, avete raggiunto un verdetto? Sì, vostro onore. L'imputato si alzi e guardi la giuria. Qual è il vostro verdetto? Riconosciamo l'imputato colpevole secondo l'accusa. Confusamente vidi Atticus che infilava delle carte nella sua borsa. La chiuse di scatto, salutò il signor Gilmer e poi si avvicinò a Tom Robinson e gli mise la mano sulla spalla, bisbigliando qualcosa. Quindi lasciò il tribunale, attraversando rapidamente il centro dell'aula. Non alzò gli occhi. Qualcuno mi stava dando dei colpetti, ma io ero riluttante a distogliere gli occhi dall'immagine del solitario percorso di Atticus attraverso l'aula. Mi misi a piangere e poi Jem. Il suo viso era solcato di lacrime e di rabbia mentre ci facevamo strada tra la folla. All'angolo della piazza trovammo Atticus che ci attendeva, ritornato impassibile. A casa, zia Alexandra ci aspettava in piedi. Jem, non so se ti può giovare, ma ti voglio dire una cosa. Al mondo ci sono uomini che sono nati apposta per fare i lavori più difficili e spiacevoli. E tuo padre è uno di loro. La mattina successiva Atticus s'alzò alla sua solita e quando noi ci trascinammo nel soggiorno lo trovammo lì, nascosto dal corriere di Mobile. Ci rassicurò che a Tom Robinson non sarebbe successo nulla fino a quando la corte d'appello non avesse riesaminato il caso e che Tom aveva buone probabilità di uscirne libero o perlomeno di ottenere un nuovo processo. Mercy, mercy, baby. I know. Agosto stava per cedere il passo a settembre. Dil doveva partire l'indomani per Meridian. Quella sera, mentre eravamo tutti seduti sotto il portico di casa, vedemmo Atticus avvicinarsi. Si arrestò sulla soglia, teneva il cappello in mano ed era pallido in volto. Che è successo, Atticus? Tom Robinson è morto. Tom è riuscito a scappare. La guardia gli ha gridato di fermarsi. Tom non si è fermato. La guardia gli ha sparato alle gambe, ma ha sbagliato e l'ha ucciso. Zia Alexandra si portò le mani alla bocca, poi si sedette e si coprì il volto con le mani. Sedeva così, immobile, ed era così silenziosa che mi chiesi se non stesse per svenire. Credevo che stesse piangendo, ma quando si tolse le mani dal viso, pareva solo esausta. La guardia dice che Tom correva come fosse diventato pazzo. Gli avevo tanto raccomandato di non perdere la speranza, che avremmo vinto in appello. E c'era la speranza. Ero sicuro che ce l'avrei fatta. Devo andare a dirlo alla sua famiglia. Sta attenta ai bambini, Moody. Maycomb si interessò alla notizia della morte di Tom per 2 giorni al massimo. Per Maycomb la morte di Tom era caratteristica. Caratteristico da parte sua tagliare la corda e correre. Caratteristico della mentalità di un negro aver spiccato una corsa pazza alla prima occasione che gli si era presentata. Tom era un uomo morto il minuto stesso in cui Mayella Ewell aveva aperto la bocca per gridare. Il signor Ewell aveva detto che era uno di meno e ne restavano altri 2. Il nome Ewell mi dava un principio di nausea e Jem mi disse di non temere, che il signor Ewell era un pallone gonfiato e basta. Nel frattempo venne settembre e Dil ci lasciò. Cominciò la scuola e così riprendemmo i nostri passaggi giornalieri davanti alla casa dei Redley. Casa Redley aveva smesso di atterrirmi, ma non aveva perso nulla del suo squallore, del suo gelo sotto le grandi querce. Sapevamo che lì dentro c'era Boo. Per la stessa antica ragione, nessuno l'aveva visto uscire in una bara. Atticus diceva che le cose si sistemano sempre in qualche modo e che passato qualche tempo la gente avrebbe dimenticato Tom Robinson. Forse aveva ragione, ma gli avvenimenti estivi quel settembre incombevano su di noi come del fumo in una stanza chiusa. Una strana cosa di quell'autunno non ho mai capito. Nonostante i suoi errori, la gente rielesse Atticus al Parlamento di Stato. Io ne tirai la conclusione che la gente era stramba e basta. Piano piano le cose si sistemarono davvero, in certo qual modo, secondo le previsioni di Atticus. Quell'autunno, per la festa di Halloween, sarebbe stato messo a disposizione l'auditorium della scuola superiore. Qui avrebbe avuto luogo una recita. Inoltre vi sarebbe stato un premio di 25 centesimi per il miglior costume. Quella sera ero tutta eccitata. Ci sarebbe stata una festa mascherata in onore dei prodotti agricoli della contea. E io dovevo fare la parte del prosciutto. Jem aveva detto che mi avrebbe accompagnata fino al teatrino della scuola. E così cominciò il nostro viaggio più memorabile. Quando mi calavano giù sulla testa quell'affare, mi arrivava quasi alle ginocchia. Jem disse che parevo tale quale a un prosciutto con le gambe. Solo che il costume era soffocante, mi stava stretto e una volta dentro non potevo uscirne da sola. La temperatura era insolitamente calda per essere l'ultimo giorno di ottobre. Svoltammo l'angolo ed entrammo nel cortile della scuola. Scout, lasciati guidare, altrimenti ti rompi l'osso del collo. No, no, lasciami, ci vedo benissimo. Che c'è? Sta zitta un momento. Avevo sentito qualcosa. Avevamo rallentato fino a un'andatura guardinga e procedevamo a tentoni per non andare a sbattere contro l'albero. Riprendemmo la strada in silenzio. Aspetta. Jen, perché mi vuoi mettere paura? Shh. E piantala! Sta zitta! Io sento solo un cane che abbaia. Non è questo, sento qualcosa quando camminiamo. Quando ci fermiamo non lo sento più. Sarà il mio prosciutto che fa rumore. Su, andiamo. Non avevamo fatto neanche 5 passi che ci fermammo di nuovo. Adesso lo sento anch'io. Andiamo. La notte era immota. Ogni tanto c'era una brezza improvvisa che mi colpiva le gambe nude, ma questo era tutto. Tendemmo le orecchie. Non avevamo affrettato il passo. Jem sapeva quanto me che era difficile camminare veloci a piedi scalzi senza incespicare. Chiunque ci stava seguendo strascicava i piedi, come se portasse delle scarpe pesanti e spessi calzoni di tela. Quel che avevo preso per il frusciare degli alberi era il sommesso strusciare di tela contro tela a ogni passo. Jem mi diede una pigiatina sulla testa. Ci fermammo di nuovo ad ascoltare. La sabbia era fredda sotto i piedi e sapevo che ci trovavamo accanto alla grande quercia. Questa volta il signor strusciapiedi non si arrestò assieme a noi. I pantaloni frusciarono dolcemente. Poi tutto a un tratto lo sentimmo correre, correre verso di noi e quelli non erano passi infantili. Scappa, scout! Scappa, scout! Scappa! Feci un passo spropositato e mi trovai che barcollavo. Con le braccia inservibili non riuscivo a mantenere l'equilibrio nel buio. Da lì vicino mi giunse un rumor di lotta, di calci. Poi qualcuno mi rotolò addosso e al tatto riconobbi Jem. Si mise in piedi come un fulmine e mi tirò su con sé, e sebbene avessi libere la testa e le spalle, ero tuttora malamente impigliata nella rete. Sentii la mano di Jem lasciarmi di scatto. Altro rumor di lotta, poi mi giunse un sordo rumore crocchiante e Jem urlò. Mi voltai in direzione del grido di Jem e piombai contro uno stomaco flaccido. Il suo padrone mi afferrò con braccia d'acciaio. Non riuscivo a muovermi mentre lui mi stringeva il collo, togliendomi lentamente il respiro. Improvvisamente venne tirato indietro, trascinandomi quasi con lui. Accanto a me un uomo respirava con affanno. Tossiva violentemente, di una tosse singhiozzante, lacerante. L'uomo cominciò a muovere qualche passo, come cercando qualcosa. Lo sentii mugolare e trascinar qualcosa di pesante per terra. Mi venne l'idea che ora accanto all'albero eravamo in quattro. L'uomo si avviava con passo greve e barcollante verso la strada. Mi diressi verso il punto dal quale era passato lui e tastai freneticamente il terreno protendendo le punte dei piedi. Finalmente toccai qualcuno. Toccai dei bottoni, un colletto, un volto. Un'irsuta peluria sul viso mi convinse che non era Jem. Mi avviai incerta verso dove immaginavo fosse la strada. La trovai e guardai verso il lampione. Un uomo ci stava passando sotto, con Jem sulle braccia. Era un campagnolo che non conoscevo. Il braccio di Jem penzolava in modo bizzarro. Quando arrivai all'angolo, l'uomo stava attraversando il nostro giardino. La luce della porta incorniciò per un attimo Atticus. Questi si precipitò giù dai gradini e insieme all'uomo portò dentro Jem. Scout! Scout! Che è successo? Non lo so. Ti giuro che non lo so. Capogliato, vada al dottor Reynolds e digli di venire qui. Sì, signore. Tu stai bene? Sì, signore. Sei sicura? Sì, signore. Atticus prese in mano il telefono e chiamò lo sceriffo Ted. Atticus, Jem è morto. No, è svenuto. Non sapremo se è grave fin quando non arriva il dottore. Peck, sono Atticus Finch. Qualcuno ha assalito i miei figlioli. Zia Alexandra stava seduta su una sedia a dondolo accanto al caminetto. L'uomo che aveva portato a casa Jem stava in piedi in un angolo, appoggiato al muro, e Atticus stava in piedi accanto al letto di Jem. Lo sceriffo s'arrestò sulla soglia. Bob Ewell è steso per terra sotto un albero con un coltello da cucina ficcato in mezzo alle costole. È morto, signor Finch. Ne è sicuro? Sì. Non darà più fastidio a questi bambini. Lo sceriffo tirò su col naso, diede un'occhiata penetrante all'uomo nell'angolo e gli fece un cenno col capo. M'avvicinai ad Atticus e mi sentii stringere dalle sue braccia. Gli affondai la testa sul petto mentre lo sceriffo mi disse: Miss Scout, ci potrebbe dire che cosa è successo? Non lo so. Tutto a un tratto qualcuno mi ha dato una spinta e mi ha buttato in terra. Jem mi ha aiutato. E poi il signor Ewell, mi pare che fosse lui, ha picchiato Jem e lui si è messo a gridare. Poi è tornato verso di me. Il signor Ewell, credo. Ma qualcuno lo ha fermato e ho sentito qualcuno che soffiava e tossiva. E ho visto qualcuno che portava Jem. E chi era? Beh, eccolo lì, signor Ted. Lo chieda a lui come si chiama. Mentre dicevo questo, indicai con un gesto vago l'uomo nell'angolo. Stava sempre appoggiato al muro con le braccia conserte sul petto. Quando puntai il dito contro, abbassò le mani e premette le palme contro il muro. Erano mani bianche, mani che non avevano mai visto il sole, talmente bianche che risultavano nettamente contro la parete d'un crema sbiadito. Il mio sguardo gli andò dalle mani ai pantaloni cachi sporchi di sabbia. Percorsi con gli occhi la sua figura sottile fino alla camicia di rigatino strappata. Aveva il viso bianco come le mani, salvo un'ombra sul mento sporgente. Le guance magre erano quasi scavate, la bocca era larga, c'erano dei lievi, quasi delicati infossamenti sulle tempie. E gli occhi grigi erano così scoloriti che credetti che fosse cieco. Quando l'additai, fu preso da uno strano lieve tremito, come se sentisse grattare con le unghie su una lavagna. Ma mentre lo guardavo perplessa, la tensione gli abbandonò lentamente il viso. Le sue labbra si schiusero in un timido sorriso e l'immagine del nostro vicino venne offuscata dalle mie lacrime improvvise. Sei tu? Il signor Arthur Redley. Io penso che già ti conosca. Era il signor Arthur Radley, Boo, il vicino che abitava nella casa buia e decadente. Atticus sedette sul divano a dondolo, lo sceriffo Ted su una sedia accanto a lui. Io sedetti accanto a Boo. Ted, rivolgendosi ad Atticus, disse: Signor Finch, lei crede che Jem abbia ucciso Bobby Ewell? Non è stato suo figlio ad ucciderlo. Bobby Ewell è caduto sul suo coltello. Si è ucciso da solo. C'è un negro morto senza ragione. Ed ora il responsabile è morto. Lasciamo che i morti seppelliscano i morti, signor Finch. Non ho mai sentito dire che sia contrario alla legge che un cittadino faccia tutto il possibile per impedire un delitto. E lui ha fatto proprio questo. Ma forse lei mi dirà che sarebbe mio dovere dire a tutti come sono andate le cose. Lo sa che succederebbe? Tutte le signore di Macomb, compresa mia moglie, comincerebbero a venire qui e a portare dolci e regali a Boo. Secondo me, prendere uno che ha fatto a lei e a tutta la città un così bel servizio e portarlo alla ribalta e farne un eroe timido com'è, sarebbe un peccato. Io non conto molto, signor Finch, ma sono lo sceriffo della contea di Macomb e Bob Ewell è caduto sul suo coltello. Buonanotte. Il signor Ted uscì dal portico a passo marziale e attraversò il giardino. Sbatté la portiera della macchina e partì. Atticus restò seduto lungamente a guardare il pavimento. Aveva l'aria di uno che ha bisogno di essere tirato su di morale. Corsi da lui e l'abbracciai. Il signor Ted aveva ragione. Come sarebbe? Sarebbe come sparare a un usignolo, non ti pare? Atticus mi affondò il viso nei capelli e ce lo strofinò su. Quando s'alzò e attraversò il portico, aveva ripreso il suo passo giovanile. Prima di rientrare in casa, si fermò davanti a Boo Radley. Grazie, Arthur. Grazie per i miei figli. Quando Boo si alzò in piedi, la luce delle finestre del soggiorno gli illuminò la fronte. Ogni movimento che faceva era incerto, come se non fosse sicuro che mani e piedi potessero raggiungere il giusto contatto con le cose che toccava. Tossiva di quella sua orribile tosse ragliante ed era così agitato che dovette tornare a sedersi. Con la mano si palpò la tasca posteriore dei pantaloni e ne tirò fuori un fazzoletto. Si asciugò la fronte. Mi pareva incredibile averlo avuto seduto accanto a me tutto quel tempo. Non aveva aperto bocca. Si mise in piedi un'altra volta, si volse verso di me e con la testa mi indicò la porta. Lo condussi lungo il corridoio in camera da letto. Qui lo presi per mano. Una mano sorprendentemente calda, ed egli si lasciò condurre davanti al letto di Jem. Sul suo viso c'era un'espressione di timida curiosità, come se in vita sua non avesse mai visto un bambino. La mano di Boo restò sospesa sulla testa di Jem e gli scese leggera sui capelli. Poi le sue dita strinsero forte le mie e mi fece capire che voleva uscire. Lo ricondussi nel portico dove i suoi passi vacillanti s'arrestarono. Mi teneva sempre per mano e non dava segno di lasciarmi andare. Arrivammo sotto il lampione all'angolo e io pensai a quante volte avevamo fatto quel percorso, Dil, Jem e io. Per la seconda volta nella mia vita varcai il cancello di casa Radley. Boo e io salimmo i gradini fino al portico. Le sue dita trovarono la maniglia della porta. Mi lasciò dolcemente la mano, aprì la porta, entrò e si chiuse l'uscio alle spalle. Non lo rividi mai più. I vicini portano da mangiare quando muore qualcuno. Portano dei fiori quando qualcuno è ammalato e altre piccole cose in altre occasioni. Boo era anche lui un nostro vicino e ci aveva dato due pupazzi fatti col sapone, un orologio rotto con la catena, un coltello e le nostre vite. Mi voltai per tornare a casa. I lampioni splendevano lungo tutta la strada fin giù in paese. Non avevo mai scorto il nostro quartiere da quel punto di vista. Una volta Atticus mi aveva detto: non riuscirai mai a capire una persona se non cerchi di metterti nei suoi panni, se non cerchi di vedere le cose dal suo punto di vista. Ebbene, io quella notte capii quello che voleva dire. Adesso che il buio non ci faceva più paura, avremmo potuto oltrepassare la siepe che ci divideva dalla casa dei Radley e guardare la città e le cose dalla loro veranda. Accadde tutto in una notte, la notte più lunga, più terribile e insieme la più bella di tutta la mia vita. Avviandomi verso casa, pensai che Gemma e io saremmo diventati grandi, ma che non c'era rimasto granché da imparare, salvo l'algebra forse. Salii i gradini di corsa e entrai in casa. Atticus sedeva accanto al letto di Gem, leggendo. Aprì la bocca per dire qualcosa, ma poi la richiuse. Tornò indietro alla prima pagina del libro. Gli andai vicino e posai la testa sul suo ginocchio. Mi imposi di star sveglia, ma la stanza era così calda, la sua voce così profonda e il suo ginocchio così accogliente che mi addormentai. Qualche secondo dopo, così mi parve, lui mi rimetteva dolcemente in piedi e mi riaccompagnava in camera mia. Mi slacciò i pantaloni, mi appoggiò contro di sé, me li sfilò e allungò una mano verso il pigiama. Mi guidò verso il letto e mi mise sotto le coperte. Sotto il mento sentivo le sue mani che tiravano su le coperte e me le rimboccavano tutto intorno. Spense la luce e andò in camera di Gem. Ci sarebbe rimasto tutta la notte e lì l'avrebbe trovato Gem, svegliandosi al mattino. Testo tratto da Il buio oltre la siepe di Harper Lee, Feltrinelli Editore. Audiogrammi è un programma ideato e condotto da Laura Faggin e Paolo Corleoni. Voce Laura Faggin. I love you just the way you are. I